Ad alta voce. Paola Pitagora legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Sul tardi si tornò a casa e i servitori, scendendo in fretta con le torce, avvertirono che molte visite stavano aspettando. La voce era corsa e i parenti e gli amici venivano a fare il loro dovere. S'entrò nella sala della conversazione. La sposina ne fu l'idolo, il trastullo, la vittima. Ognuno la voleva per sé, chi si faceva promettere dolci, chi prometteva visite, chi parlava della madre tale sua parente, chi della madre tal'altra sua conoscente, chi lodava il cielo di Monza, chi discorreva con gran sapore della gran figura che essa avrebbe fatta là. Altri, che non avevano potuto ancora avvicinarsi a Gertrude così assediata, stavano spiando l'occasione di farsi innanzi e sentivano un certo rimorso finché non avessero fatto il loro dovere. A poco la compagnia s'andò dileguando. Tutti se ne andarono senza rimorso e Gertrude rimase sola con genitori e il fratello. «Finalmente», disse il principe, «ho avuto la consolazione di veder mia figlia trattata da par sua. Bisogna però confessare che anche lei si è portata benone e ha fatto vedere che non sarà impicciata a far la prima figura e a sostenere il decoro della famiglia». Si cenò in fretta per ritirarsi subito ed essere pronti presto la mattina seguente. Gertrude, contristata, indispettita e nello stesso tempo un po' gonfiata da tutti quei complimenti, si rammentò in quel punto ciò che aveva patito dalla sua carceriera e, vedendo il padre così disposto a compiacerla in tutto, fuorché in una cosa, volle approfittare dell'auge in cui si trovava per acquietare almeno una delle passioni che la tormentavano. Mostrò quindi una gran ripugnanza a trovarsi con colei, lagnandosi fortemente delle sue maniere. «Come?» disse il principe. «Va mancato di rispetto colei? Domani le laverò il capo come va. Lasciate fare a me, che le farò conoscere chi è lei e chi siete voi. E a ogni modo, una figlia della quale io son contento non deve vedersi intorno una persona che le dispiaccia». Così detto, fece chiamare un'altra donna e le ordinò di servir Gertrude, la quale intanto, masticando e assaporando la soddisfazione che aveva ricevuta, si stupiva di trovarci così poco sugo in paragone del desiderio che ne aveva avuto. Ciò che, anche suo malgrado, si impossessava di tutto il suo animo era il sentimento dei gran progressi che aveva fatti in quella giornata sulla strada del chiostro. Il pensiero che a ritirarsene ora ci vorrebbe molta più forza e risolutezza di quella che sarebbe bastata pochi giorni prima e che pure non s'era sentita d'avere. La donna che andò ad accompagnarla in camera era una vecchia di casa, stata già governante del principino, che aveva ricevuto appena uscito dalle fasce e tirato su fino all'adolescenza, e nel quale aveva riposte tutte le sue compiacenze, le sue speranze, la sua gloria. Essa era contenta della decisione fatta in quel giorno come d'una sua propria fortuna. E Gertrude, per ultimo divertimento, dovette succiarsi le congratulazioni, le lodi, i consigli della vecchia e sentir parlare di certe sue zie e prozie, le quali si erano trovate ben contente d'essere monache, perché, essendo di quella casa, avevano sempre goduto i primi onori, avevano sempre saputo tenere uno zampino di fuori e dal loro parlatorio avevano ottenuto cose che le più grandame nelle loro sale non c'erano potute arrivare. Le parlò delle visite che avrebbe ricevute. Un giorno poi verrebbe il signor principino con la sua sposa, la quale doveva essere certamente una gran signorona. E allora non solo il monastero, ma tutto il paese sarebbe in moto. La vecchia aveva parlato mentre spogliava Gertrude. Quando Gertrude era a letto, parlava ancora che Gertrude dormiva. La giovinezza e la fatica erano state più forti dei pensieri. Il sonno fu affannoso, torbido, pieno di sogni penosi, ma non fu rotto che dalla voce strillante della vecchia, che venne a svegliarla perché si preparasse per la gita di Monza. «Andiamo! Andiamo, signora sposina! È giorno fatto! E prima che sia vestita e pettinata ci vorrà un'ora almeno. La signora principessa si sta vestendo e l'hanno svegliata 4 ore prima del solito. Il signor principino è già sceso alle scuderie, poi è tornato su ed è all'ordine per partire quando si sia. Vispo come una lepre quel diavoletto, ma è stato così fin da bambino e io posso dirlo che l'ho portato in collo. Ma quando è pronto non bisogna farlo aspettare, perché sebbene sia della miglior pasta del mondo, allora si impazientisce e strepita. Poveretto, bisogna compatirlo, è il suo naturale. E poi questa volta avrebbe anche un po' di ragione, perché si incomoda per lei. Guai a chi lo tocca in quei momenti, non ha riguardo per nessuno, fuorché per il signor principe. Ma finalmente non ha sopra di sé che il signor principe, e un giorno il signor principe sarà lui, più tardi che sia possibile però. Lesta, lesta signorina, perché mi guarda così incantata? A quest'ora dovrebbe essere fuori dalla cuccia. All'immagine del principino impaziente, tutti gli altri pensieri che si erano affollati alla mente risvegliata di Gertrude si levarono subito come uno stormo di passere all'apparir del nebbio. Ubbidì, si vestì in fretta, si lasciò pettinare e comparve nella sala dove i genitori e il fratello erano radunati. Fu fatta sedere su una sedia a braccioli e le fu portata una chicchera di cioccolata, il che a quei tempi era quel che già presso i romani il dar la veste virile. Quando vennero a avvertir che era attaccato, il principe tirò la figlia in disparte e le disse: «Orsù, Gertrude, ieri vi siete fatta onore. Oggi dovete superar voi medesima. Si tratta di fare una comparsa solenne nel monastero e nel paese dove siete destinata a far la prima figura. V'aspettano». È inutile dire che il principe aveva spedito un avviso alla badessa il giorno avanti. V'aspettano e tutti gli occhi saranno sopra di voi. Dignità e disinvoltura. La badessa vi domanderà cosa volete, è una formalità. Potete rispondere che chiedete d'essere ammessa a vestir l'abito in quel monastero dove siete stata educata così amorevolmente, dove avete ricevute tante finezze, che è la pura verità. Dite quelle poche parole con un fare sciolto, che non si avesse a dire che vanno imboccata e che non sapete parlare da voi. Quelle buone madri non sanno nulla dell'accaduto. È un segreto che deve restar sepolto nella famiglia e perciò non fate una faccia contrita e dubbiosa che potesse dar qualche sospetto. Fate vedere di che sangue uscite, manierosa, modesta, ma ricordatevi che in quel luogo fuori della famiglia non ci sarà nessuno sopra di voi. Senza aspettare risposta, il principe si mosse. Gertrude, la principessa e il principino lo seguirono, scesero tutte le scale e montarono in carrozza. Gli impicci e le noie del mondo e la vita beata del chiostro, principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema della conversazione durante il tragitto. Sul finire della strada il principe rinnovò l'istruzione alla figlia e le ripeté più volte la formula della risposta. All'entrare in Monza, Gertrude si sentì stringere il cuore, ma la sua attenzione fu attirata per un istante da non so quali signori che, fatta fermare la carrozza, recitarono non so qual complimento. Ripreso il cammino, s'andò quasi di passo al monastero tra gli sguardi dei curiosi che accorrevano da tutte le parti sulla strada. Al fermarsi della carrozza davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore si strinse ancor più a Gertrude. Si smontò tra due ale di popolo che i servitori facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l'obbligavano a studiare continuamente il suo contegno, ma più di tutti quelli insieme la tenevano in suggezione i due del padre, a quali essa, quantunque ne avesse così gran paura, non poteva lasciar di rivolgere i suoi ogni momento. E quegli occhi governavano le sue mosse e il suo volto come per mezzo di redini invisibili. Attraversato il primo cortile si entrò in un altro e lì si vide la porta del chiostro interno spalancata e tutta occupata da monache. Nella prima fila la badessa circondata da anziane, dietro altre monache alla rinfusa, alcune in punta di piedi, in ultimo le converse, ritte sopra panchetti. Si vedevano pure qua e là luccicare a mezz'aria alcuni occhietti, spuntar qualche visino tra le tonache. Erano le più destre e le più coraggiose tra le ducande, che ficcandosi e penetrando tra monaca e monaca era riuscita a farsi un po' di pertugio per vedere anch'esse qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni. Si vedevano molte braccia dimenarsi in segno d'accoglienza e di gioia. Giunsero alla porta. Gertrude si trovò viso a viso con la madre badessa. Dopo i primi complimenti, questa, con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo dove non c'era chi le potesse negar nulla. «Son qui», cominciò Gertrude, ma al punto di proferire le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento e rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide, in quel momento, una di quelle sue note compagne che la guardava con un'aria di compassione e di malizia insieme, e pareva che dicesse: «Ah, la c'è cascata la brava!» Quella vista, risvegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti, le restituì anche un po' di quel poco antico coraggio, e già stava cercando una risposta qualunque, diversa da quella che le era stata dettata, quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per sperimentar le sue forze, scorse su quella un'inquietudine così cupa, un'impazienza così minaccevole che, risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi a un oggetto terribile, proseguì: «Son qui a chiedere d'essere ammessa a vestir l'abito religioso in questo monastero dove sono stata allevata così amorevolmente». La badessa rispose subito che le dispiaceva molto in una tale occasione che le regole non le permettessero di dare immediatamente una risposta, la quale doveva venire dai voti comuni delle suore e alla quale doveva precedere la licenza dei superiori. Che però Gertrude, conoscendo i sentimenti che s'avevano per lei in quel luogo, poteva prevedere con certezza qual sarebbe questa risposta, e che intanto nessuna regola proibiva alla badessa e alle suore di manifestare la consolazione che sentivano di quella richiesta. S'alzò allora un frastuono confuso di congratulazioni ed acclamazioni. Vennero subito gran guantiere colme di dolci che furono presentati prima alla sposina e dopo ai parenti. Mentre alcune monache facevano rubarsela e altre complimentavano la madre, altre il principino, la badessa fece pregare il principe che volesse venire alla grata del parlatorio dove l'attendeva. Era accompagnata da due anziane e quando lo vide comparire: «Signor principe», disse, «per ubbidire alle regole, per adempiere una formalità indispensabile, sebbene in questo caso pure devo dirle che ogni volta che una figlia chiede d'essere ammessa a vestir l'abito, la superiora, quale io sono indegnamente, è obbligata ad avvertire i genitori che se per caso forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica, mi scuserà». «Benissimo, benissimo, reverenda madre, lodo la sua esattezza, è troppo giusto, ma lei non può dubitare». «Oh, pensi, signor principe, ho parlato per obbligo preciso, del resto, certo, certo, madre badessa». Barattate queste poche parole, i due interlocutori si inchinarono vicendevolmente e si separarono, come se a tutte e due pesasse di rimaner lì testa a testa, e andarono a riunirsi ciascuno alla sua compagnia, l'uno fuori, l'altra dentro la soglia claustrale. Dato luogo a un po' d'altre ciarle, «Oh, via!» disse il principe, «Gertrude potrà presto godersi a suo bell'agio la compagnia di queste madri. Per ora le abbiamo incomodate abbastanza». Così detto, fece un inchino, la famiglia si mosse con lui, si rinnovarono i complimenti e si partì. Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata del passo che aveva fatto, vergognosa della sua dappocaggine, indispettita contro gli altri e contro se stessa. Faceva tristamente il conto delle occasioni che le rimanevano ancora di dir di no e prometteva debolmente, confusamente a se stessa che in questa o in quella o in quell'altra sarebbe più destra e più forte. Con tutti questi pensieri non le era però cessato affatto il terrore di quel cipiglio del padre, talché quando, con un'occhiata datagli alla sfuggita, poté chiarirsi che sul volto di lui non c'era più alcun vestigio di collera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei. Le parve una bella cosa e fu, per un istante, tutta contenta. Appena arrivati, bisognò rivestirsi e rilisciarsi, poi il desinare, poi alcune visite, poi la trottata, poi la conversazione, poi la cena. Sulla fine di questa, il principe mise in campo un altro affare, la scelta della madrina. Così si chiamava una dama la quale, pregata da genitori, diventava custode e scorta della giovane monacanda nel tempo tra la richiesta e l'entratura nel monastero, tempo che veniva speso in visitare le chiese, i palazzi pubblici, le conversazioni, le ville, i santuari. Tutte le cose, insomma, più notabili della città e dei contorni, affinché le giovani, prima di proferire un voto irrevocabile, vedessero bene a cosa davano un calcio. «Bisognerà pensare a una madrina», disse il principe, «perché domani verrà il vicario delle monache per la formalità dell'esame». E subito dopo Gertrude verrà proposta in capitolo per essere accettata dalle madri. Nel dir questo s'era voltato verso la principessa e questa, credendo che fosse un invito a proporre, cominciava «Ci sarebbe...» Ma il principe interruppe. «No, no, signora principessa, la madrina deve prima di tutto piacere alla sposina e benché l'uso universale dia la scelta ai parenti, pure Gertrude ha tanto giudizio, tanta assennatezza, che merita bene che si faccia un'eccezione per lei». E qui, voltandosi a Gertrude in atto di chi annunzia una grazia singolare, continuò: «Ognuna delle dame che si sono trovate questa sera alla conversazione ha quel che si richiede per essere madrina d'una figlia della nostra casa. Non c'è nessuna, crederei, che non sia per tenersi onorata della preferenza. Scegliete voi». Gertrude vedeva bene che far questa scelta era dar un nuovo consenso, ma la proposta veniva fatta con tanto apparato che il rifiuto, per quanto fosse umile, poteva parer disprezzo o almeno capriccio e leziosaggine. Fece dunque anche quel passo e nominò la dama che in quella sera le era andata più a genio, quella cioè che le aveva fatto più carezze, che l'aveva più lodata, che l'aveva trattata con quelle maniere familiari, affettuose e premurose che nei primi momenti d'una conoscenza contraffanno un'antica amicizia. «Ottima scelta», disse il principe, che desiderava e aspettava appunto quella. Fosse arte o caso, era avvenuto come quando il giocatore di bussolotti, facendovi scorrere davanti agli occhi le carte d'un mazzo, vi dice che ne pensiate una e lui poi ve la indovinerà, ma le fate scorrere in maniera che ne vediate una sola. Quella dama era stata tanto intorno a Gertrude tutta la sera, l'aveva tanto occupata di sé che a questa sarebbe bisognato uno sforzo di fantasia per pensarne un'altra. Tante premure poi non erano senza motivo. La dama aveva da molto tempo messo gli occhi addosso al principino per farlo suo genero. Quindi riguardava le cose di quella casa come sue proprie. Ed era ben naturale che si interessasse per quella cara Gertrude, niente meno dei suoi parenti più prossimi. Il giorno dopo Gertrude si svegliò col pensiero dell'esaminatore che doveva venire. E mentre stava ruminando se potesse cogliere quella occasione così decisiva per tornare indietro e in qual maniera, il principe la fece chiamare. «Ora su, figliuola», le disse, «finora vi siete portata egregiamente. Oggi si tratta di coronar l'opera. Tutto quel che si è fatto finora si è fatto di vostro consenso. Se in questo tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di gioventù, avreste dovuto spiegarvi. Ma al punto a cui sono ora le cose, non è più tempo di far ragazzate. Quell'uomo da bene che deve venire stamattina vi farà 100 domande sulla vostra vocazione. E se vi fate monaca di vostra volontà, e il perché, il per come, e che so io. Se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chissà quanto. Sarebbe un'uggia, un tormento per voi, ma ne potrebbe anche venire un altro guaio più serio. Dopo tutte le dimostrazioni pubbliche che si sono fatte, ogni più piccola esitazione che si vedesse in voi metterebbe a repentaglio il mio onore. Potrebbe far credere che io avessi presa una vostra leggerezza per una ferma risoluzione, che avessi precipitato la cosa, che avessi... che so io. In questo caso mi troverei nella necessità di scegliere tra due partiti dolorosi, o lasciar che il mondo formi un tristo concetto della mia condotta, partito che non può stare assolutamente con ciò che devo a me stesso, o svelare il vero motivo della vostra risoluzione. Ma qui, vedendo che Gertrude era diventata scarlatta, che le si gonfiavano gli occhi e il viso si contraeva come le foglie d'un fiore nell'afa che precede la burrasca, troncò quel discorso e con aria serena riprese: via via, tutto dipende da voi, dal vostro buon giudizio. So che ne avete molto e non siete ragazza da guastar sulla fine una cosa fatta bene, ma io doveva prevedere tutti i casi. Non se ne parli più. E restiamo d'accordo che voi risponderete con franchezza, in maniera di non far nascere dubbi nella testa di quell'uomo da bene. Così anche voi ne sarete fuori più presto. E qui, dopo aver suggerita qualche risposta alle interrogazioni più probabili, entrò nel solito discorso delle dolcezze e dei godimenti che erano preparati a Gertrude nel monastero, e la trattenne in quello finché venne un servitore ad annunziare il vicario. Il principe rinnovò in fretta gli avvertimenti più importanti e lasciò la figlia sola con lui, come era prescritto. L'uomo da bene veniva con un po' d'opinione già fatta che Gertrude avesse una gran vocazione al chiostro, perché così gli aveva detto il principe quando era stato a invitarlo. È vero che il buon prete, il quale sapeva che la diffidenza era una delle virtù più necessarie nel suo ufficio, aveva per massima d'andare ad agio nel credere a simili proteste e di stare in guardia contro le preoccupazioni. Ma ben di rado avviene che le parole affermative e sicure d'una persona autorevole in qualsivoglia genere non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta. Dopo i primi complimenti, «Signorina», le disse, «io vengo a far la parte del diavolo. Vengo a mettere in dubbio ciò che nella sua supplica lei ha dato per certo. Vengo a mettere davanti agli occhi le difficoltà e ad accertarmi se le ha ben considerate. Si contente che io le faccia qualche interrogazione?» «Dica pure», rispose Gertrude. Il buon prete cominciò allora a interrogarla nella forma prescritta dalle regole. «Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce o lusinghe? Non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo? Parli senza riguardi e con sincerità a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo». La vera risposta a una tale domanda s'affacciò subito alla mente di Gertrude con un'evidenza terribile. Per dare quella risposta bisognava venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una storia. L'infelice rifuggì spaventata da questa idea, cercò in fretta un'altra risposta, ne trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al vero. «Mi fo monaca?» disse, nascondendo il suo turbamento. «Mi fo monaca di mio genio, liberamente». «Da quanto tempo le è nato codesto pensiero?» domandò ancora il buon prete. «L'ho sempre avuto. rispose Gertrude, divenuta dopo quel primo passo più franca a mentire contro se stessa. Ma qual è il motivo principale che la induce a farsi monaca? Il buon prete non sapeva che terribile tasto toccasse e Gertrude si fece una gran forza per non lasciar trasparire sul viso l'effetto che quelle parole le producevano nell'animo. Il motivo, disse, è di servire a Dio e di fuggire i pericoli del mondo. Non sarebbe mai qualche disgusto o qualche, mi scusi, capriccio? Alle volte una cagione momentanea può fare un'impressione che par che debba durar sempre, poi quando la cagione cessa e l'animo si muta, allora... No, no, rispose precipitosamente Gertrude, la cagione è quella che le ho detto. Il vicario, più per adempiere interamente il suo obbligo che per la persuasione che ce ne fosse bisogno, insistette con le domande. Ma Gertrude era determinata ad ingannarlo. Oltre il ribrezzo che le cagionava il pensiero di render consapevole della sua debolezza quel grave e da ben prete che pareva così lontano da sospettar tal cosa di lei, la poveretta pensava poi anche che gli poteva bene impedire che si facesse monaca. Ma lì finiva la sua autorità sopra di lei e la sua protezione. Partito che fosse, essa rimarrebbe sola col principe. E qualunque cosa avesse poi a patire in quella casa, il buon prete non avrebbe saputo nulla, o sapendolo, con tutta la sua buona intenzione, non avrebbe potuto far altro che aver compassione di lei. Quella compassione tranquilla e misurata che in generale s'accorda come per cortesia a chi abbia dato cagione o pretesto al male che gli fanno. L'esaminatore fu prima stanco di interrogare che la sventurata di mentire e sentendo quelle risposte sempre conformi e non avendo alcun motivo di dubitare della loro schiettezza, mutò finalmente linguaggio. Si rallegrò con lei, le chiese in certo modo scusa d'aver tardato tanto a far questo suo dovere, aggiunse ciò che credeva più atto a confermarla nel buon proposito e si licenziò. Attraversando le sale per uscire, s'abbatté nel principe, il quale pareva che passasse di là a caso, e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in cui aveva trovata la sua figliuola. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto penosa. A quella notizia respirò e, dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da Gertrude, la ricolmò di lodi, di carezze e di promesse, con un giubilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera. Così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano. Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti, e neppure descriveremo in particolare e per ordine i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo. Sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni troppo monotona e troppo somigliante alle cose già dette. L'amenità dei luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all'aria aperta, le rendevano più odiosa l'idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora erano le impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose, alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un'invidia, un rodimento intollerabile. E talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che nel sentirsi dare quel titolo dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa dei palazzi, lo splendore degli addobbi, il brulichio e il fracasso giulivo delle feste le comunicavano un'ebbrezza e un ardor tale di viver lieto che prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto piuttosto che tornare all'ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte queste risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta